Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Un saluto da Roberto Antonini. Il nostro viaggio dall'Africa australe verso nord lo iniziamo da qui. Siamo al mercato della township di Mbare, alla periferia di Harare. I suoni che sentite in sottofondo fotografano un cambiamento abbastanza spettacolare. Forse alcuni ricorderanno, 2 anni fa il paese aveva raggiunto il fondo del baratro, stallo politico con Mugabe aggrappato al potere, che non aveva voluto riconoscere la vittoria elettorale dell'opposizione guidata da Tsvangirai. L'inflazione era salita alla folle cifra di 231 milioni per cento, un chilo di riso si pagava 150 miliardi, negozi vuoti, il paese ridotto alla fame, salvo per un'elite sociale e politica che nuotava in un'opulenza veramente sfacciata. Da un anno però il paese è guidato da una coalizione, i due nemici continuano a odiarsi, ma sono lì assieme, Mugabe presidente, Tsvangirai premier. Quanto basta per rassicurare mercati e investitori? Il dollaro americano, il rand sudafricano subentrati al bistrattato e oramai defunto Zim dollar sono le monete di tutte le transazioni, da quelle maggiori a quelle più minute. Un dollaro qui al mercato ci permette di comprare 3 paia di calze, $3 per un paio di pantaloni, 50 cents per una confezione di 2 saponette, tutto o quasi però made in China, con prezzi che consentono ai poveri, la stragrande maggioranza degli abitanti, di sovvenire ad alcuni dei bisogni più essenziali, anche se bisogna dire i salari sono molto bassi e dunque questi prezzi sono relativamente alti. Un docente o un impiegato guadagnano ad esempio sui $200 al mese. Lo Zimbabwe è comunque visto dalla capitale, sta meglio, pur essendo un paese molto povero, il reddito pro capite è uno dei più bassi al mondo, il panorama urbano è privo degli slum, le baraccopoli cresciute a dismisura altrove nel continente nero, da Johannesburg a Lagos o Nairobi. Passato l'incubo peggiore 2 anni fa, la vita, come in questo affollatissimo mercato di Mbare, sembra rinascere. Queste dunque le prime impressioni qui dallo Zimbabwe. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.